era il modo migliore per accendere i riflettori su situazioni che ormai sono in stallo. Purtroppo ci sono delle criticità croniche che non hanno visto assolutamente soluzioni, anche attraverso percorsi di contrattazione ai tavoli, anche percorsi in prefettura, perché avevamo attivato uno stato d'agitazione a luglio che però ha avuto un esito negativo e quindi di conseguenza non siamo riusciti ad arrivare a ciò che volevamo, anche solo a un punto di incontro. Questo era il modo migliore anche per informare le famiglie che ci sono situazioni ormai al collasso. Dobbiamo assolutamente cercare di migliorare le condizioni per avere un servizio di qualità, perché quando le lavoratrici e i lavoratori di un servizio delicato come quello degli 06, perché comunque alla fine i bambini vengono presi in carico tutti i giorni, quotidianamente, da questo personale e non stanno bene perché non hanno valorizzazione, non ci sono condizioni di sicurezza e comunque di benessere psicologico, non ci sono in alcun modo possibilità di avere formazione adeguata e comunque vengono sempre solo considerati personale di serie B, e allora vuol dire che poi il servizio non ha la resa che vorremmo. E quindi oggi noi siamo qui per non solo per protestare, ma per attivare una proposta costruttiva, perché vogliamo arrivare non come oggi abbiamo letto sui giornali, l'assessore Ara ha detto noi ci siederemo al tavolo oggi però non ci muoviamo da certe situazioni, e no, così non funziona. La contrattazione è fatta di due parti, ci si siede al tavolo, ci si confronta e si arriva ad una soluzione condivisa. Questo oggi purtroppo non ha visto in alcun modo alcun ascolto, quindi noi quello che chiediamo è ascolto, soluzione e benessere per lavoratrici e lavoratori di un servizio di qualità.